avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Voi direte, che c'entra questa mattina questo argomento? Beh, l'ho pensato stanotte. L'ho pensato dopo che passai una orrida nottata sul filo dell'Anisakis in un ristorante che mi aveva consigliato Fabrizio Intonti. Questa mattina ancora ho qualche spasmo di vita e quindi ne approfitto per spiegare come si lasciano le ultime volontà. Questo è il mio testamento olografo, che scrivo a mano in perfetta lucidità di mente per i miei figli lontani, se ancora si ricordano di avere un padre. Non troverete niente alla mia morte, neppure la mia tomba, solo questa lettera testamentaria che vi sarà recapitata a mano. Se ve ne siete accorti, sono già sparito da 5 anni e non mi risulta che mi avete cercato. Eravate già grandi, con la vostra vita da fare. Io ho continuato la mia. 5 anni fa ho sposato una straniera. Non vi ho detto niente e non vi ho invitato alle nozze perché avreste fatto solo storie e insinuazioni. Così per farle, perché vi fa piacere farle, come vostra madre, buon'anima. Se chiudo gli occhi, la sua voce rauca e mascolina mi rimbomba ancora nelle orecchie. Non le andava bene niente, neppure se stessa. Così ho venduto tutto quello che potevo, tranne la casa nella quale abitate. Spero che vi siate ricordati di pagare le tasse. Se non le avete pagate, provvedete subito, altrimenti il fisco ve la toglie e non vi resta nulla. Non fate scongiuri, so che è una bellissima mattinata di quasi estate e nessuno vorrebbe indurvi a pensieri che non siano lieti. Ma immaginate che qualcuno comunque, mentre voi serenamente andate per la vostra strada, pensate ai vostri amori, architettate strategie per il vostro lavoro, assaporate ancora i piaceri della notte passata, immaginate i piaceri della notte che verrà, ci sono tiepide e meravigliose serate in questo periodo, qualcuno penserà veramente al passaggio estremo. E se lo penserà, pensando anche a chi rimarrà dopo di lui, pensando in che maniera quello che ha accumulato in una vita, quello che ha messo assieme, sia di beni materiali che di beni immateriali, che di patrimonio, di conoscenze, di esperienza, possa in qualche maniera giovare a queste persone, penserà a fare testamento. Guardate, fare testamento probabilmente è una delle operazioni che più allontaniamo dal nostro quotidiano rimandandola continuamente. Chi troppo rimanda il proprio testamento alla fine crea degli infelici. Se ne va con l'angoscia di lasciare persone che comunque non saranno mai soddisfatte. Avete mai pensato a fare testamento? Avete già pensato cosa lascerete alle persone a cui volete bene, o da cui siete legati a legami di tipo familiare, di sangue o di obbligo giuridico comunque di successione? Perché normalmente non ci si pensa, non ci si vuole pensare. Quando ci si pensa, già si immagina di essere in una fase della propria vita in cui c'è la piacevolezza quasi sadica di ostentare la propria decadenza, il proprio essere in una zona liminare. Ma è troppo tardi. Secondo me il testamento, perlomeno il testamento, quello delle volontà, andrebbe fatto quando uno è lucido, quando uno sta bene, quando uno è all'apice della propria vita e della propria esistenza. 800240024. Come, in che maniera, quando o come pensereste voi al vostro testamento? Troppe volte sono stato dato per morto in questi anni, ma non mi sembra di aver mai perduto conoscenza, neanche quando non riuscivo a muovere un dito e ad aprire gli occhi. Ciò mi fa temere una morte fasulla. Ho per questo motivo predisposto nel mio comodino uno spillone lungo e chiesto a mio figlio di infilarmelo nel cuore prima di far chiudere la bara e di provvedere in presenza di qualcuno della sua combriccola e di mia moglie. Ho chiesto anche a costoro di provvedere, nel caso assai improbabile, che Basilio, per qualche motivo sopraggiunto, si rifiuti. In questo caso, come ho anticipato a voce, Basilio perde tutti i legati fatti in suo favore, col presente testamento, e avrà la sola quota di legittima. Ho parlato con Vito, il macellaio, che sarà qui al momento opportuno, e vi darà una mano se occorre. Abbiamo fatto le prove sulla carcassa di un maiale appena macellato. Sarà questione di un attimo e nessuno se ne accorgerà. Sulla capocchia dello spillone è fissata la mia medaglia al valore, in modo da non insospettire nessuno. Questi brani, che sembrano tratti da letteratura o avere una chiave romanzesca, appartengono comunque a una realtà dei fatti. Sono tratti tutti dal libro di Salvatore De Matteis, Sia fatta la mia volontà, edizione Mondadori, Come, perché fare testamento, storie, riflessioni e consigli. Salvatore De Matteis è stato più volte nostro ospite, è stato sovrintendente dell'archivio notarile distrettuale di Napoli, autore di anche Essendo capace intendere volere, Sellerio, è in piena facoltà. Insomma, è un notaio esperto in testamenti. Solo che c'è un piccolo problema: in questo momento al telefono staccato non riusciamo a collegarci con lui. Sperando che ciò non dipenda da cause che esulino da una batteria scarica, egli ha piena facoltà di chiamarci, di telefonarci, stiamo cercando di parlare con lui. Io per quanto posso, non posso che appellarmi alla buona volontà del pubblico. Può chiamare all'800240024, cominciando a raccontare la storia dei testamenti, la propria vita. Sarete stati destinatari e beneficiari del testamento di qualche vostro parente, di un vostro stretto congiunto. Avrete assaggiato con quanta amarezza il momento dell'apertura del testamento, improvvisamente vengono ridiscussi tutti i rapporti affettivi, tutti i legami familiari, tutto ciò che sembrava una certezza nella nostra vita. Ma avete mai pensato voi come lascerete, in che maniera lascerete, come vorrete che fossero ripartite le vostre povere o tante ricchezze nei vostri successori? 800240024. Ecco Pasquale che mi aiuta. Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Senta, in materia, io siccome faccio consulente finanziario e cosa, io consiglio sempre sia ai miei familiari sia agli amici clienti di fare comunque testamento olografo, tanto non è che il testamento ultimo che vale è quello ultimo fatto. Inoltre volevo fare un quesito, scrivendolo tutto a mano, a penna, tutto con la propria mano, calligrafia, ovviamente pagina per pagina. Sappiamo che cos'è il testamento olografo, si chiama olografo proprio perché deve essere scritto di proprio pugno. Ma una volta scritto dove si lascia? Chi si deposita? Un notaio? Oh, no, si può depositare ad una persona di propria fiducia. Io per esempio, che ho fatto già da tanto tempo, io ho 74 anni, grazie a Dio, sto Quante benissimo. Volte l'ha fatto testamento? Due volte, perché ho ritenuto di modificare. Cioè, ha castigato cosa. Un suo parente, figlio, nipote? No, io poi ho una situazione particolare, avendo figlie da parte di due donne. Ah, si era innamorato e quindi ha dovuto risuddividere? No, non è questione di innamorato, perché purtroppo ho perso la mia prima moglie, sì. E quindi ho la seconda, e quindi ho un problema particolare per stabilire, secondo le mie indiscutibili decisioni, senza nella cosa di accontentare sia i due figli di primo letto che quelle di secondo letto. Okay. Però siete che immagino che tra di voi ci sia un esperto. La cosa che mi interessa sapere è possibile stabilire nel testamento, dice, lascio la casa a mia moglie e in mancanza di lei alla di lei figlia Tizia. È possibile, previsto? Allora, io guardi, l'esperto in questo momento è praticamente telefonicamente deceduto, in attesa della sua resurrezione. Io mi segno le domande, non posso fare altro, arrampicarmi sugli specchi. Posso essere esperto? No, ma lei, la domanda è questa: lei può lasciare in subordine, nel caso che sì. Nel caso di decesso della prima destinataria? Della destinataria, del beneficiario, della beneficiaria. Io penso che, guardi, azzardo, che esista comunque una forma di possibilità di subentro nella successione, se io eredito, il mio diretto erede eredita invece mia quello che io avrei detto. Nel frattempo è deceduto, posso già stabilire in sede testamentaria che in mancanza della signora Rossi, in mancanza di lei, la di lei figlia Maria. Ma io penso se è il successore diretto non ci siano problemi. Poi guardi, non voglio azzardare risposte. Voi fate le domande, io me le segno tutte. Questa è molto chiara. La ringrazio innanzitutto per avermi aperto la strada. Andiamo avanti con Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Io questa mattina mi farò una cultura di testamenti fingendo di essere un notaio. Comunque, vediamo. Luigi. Io ho 58 anni. E quindi ho fatto il primo testamento a 33 anni. sì. Perché mi è capitato di essere a cena con un amico per festeggiare il suo compleanno e la mattina dopo trovarlo morto. Lui aveva fatto il testamento e ho capito che mentre prima lo prendevo in giro per averlo fatto, era una cosa che poteva capitare a tutti. Cioè la sera stessa, la sera stessa che lei l'ha preso in giro, il giorno dopo è morto, no? Sì. Cioè gli dice, ah, che hai fatto testamento, ma sei pazzo, sei giovane, il giorno dopo è schiattato. Io lo prendevo in giro non solo quella sera, da tempo, perché lui aveva fatto il testamento parecchio prima. Io gli dicevo, ma cosa fai il testamento a 33 anni? Ma forse, forse il suo amico sapeva di avere qualche problema di salute. No, è morto per una complicazione cardiaca improvvisa, lui era sanissimo. Evidentemente sentiva che era giusto che facesse questo atto. E io subito dopo quell'evento ho fatto il primo testamento, da allora ne ho fatti tre perché sono cambiato le situazioni, però ritengo proprio che tutti dovrebbero farlo, perché già morire è sgradevole, se poi uno muore, mentre muore si rende conto di lasciare quello che ha dove non vorrebbe, beh, è più triste ancora. Diciamolo, perché io vorrei che fosse una mattinata serena e pensare alla morte non è che mette allegria, però diciamo che si viaggia più leggeri e più tranquilli quando uno sa che qualunque cosa accada comunque tutto rimarrà secondo le nostre volontà e non saranno gli altri a decidere per noi, diciamola così, no? Sintesi perfetta, direi, di poter decidere quello che sarà delle nostre cose, delle cose che abbiamo amato, non solo del denaro. Ecco, lei ha fatto un testamento soltanto legato ai beni materiali o un testamento in cui dà anche, diciamo, lascia anche delle volontà più impalpabili ma più profonde? Ho avuto la pretesa di fare anche un piccolo testamento spirituale, facendo anche delle conclusioni che probabilmente... Ecco, ma perché lei lo considera, un gesto quasi di pretesa? Non hanno un valore lo stesso i nostri pensieri? Perché in assoluto non dovrebbero averlo rispetto, non so, gli eccelsi pensieri dei poeti, dei filosofi e dei pensatori? Ha un valore quello che lascia lei, perché è l'esperienza della sua vita, non è da disprezzare, non lo veda con vergogna. Ma io credo che ci siano tanti pensieri meritevoli di essere letti, di essere il mio è stato un capriccio di volerci mettere anche i miei, ecco. Poi mi permette, guardi, lo so, sì. Perché tutti cadiamo in questa colpa, noi pensiamo che esistano persone che possono partorire pensieri eccelsi e poi la gran parte dell'umanità ha dei pensieri che sono pensieri che con data di scadenza, che non hanno dignità di esistenza. Ogni pensiero in assoluto è sublime, è il suo, l'ha pensato lei, è diverso dal pensiero di un altro. Insomma, bisogna avere orgoglio del proprio patrimonio di pensiero, e se lo lascia una cosa molto preziosa. Non necessariamente occorre essere un pensatore, un filosofo riconosciuto, un grande letterato, un poeta. Vedrà che quando accadrà, il più tardi possibile, sarà la cosa che più lascerà un segno in chi le sopravviverà, i suoi pensieri. Non li disprezzi, valgono più quelli della casetta, dell'automobile e dei quattro soldini in banca. Fabrizio. Sì, buongiorno. Sto ascoltando. Sì, buongiorno. Sto ascoltando. Sì, buongiorno. Dicevo, io nonostante sia in giovane età, ho 35 anni, ho pensato già più volte di fare testamento, non tanto per diciamo le cose di materiali di primario ordine, come può essere appunto l'abitazione o il denaro. Però anche quelli occorre sistemarla la situazione, perché guarda che dopo sono dolori, glielo dico per una certa esperienza. Non sono sposato, non ho figli, quindi non è una cosa che sinceramente mi interessa. Ma ha dei beni immobili, qualcosa da lasciare? Ha dei beni immobili, mi rendo conto che dovrei sistemare la questione. Però no, perché è ancora più delicato, se lei non ha eredi diretti, chi se li prende? Al momento ho i miei familiari, ho i miei genitori, ho mia sorella, quindi una sorella, qualcuno c'è, insomma, non sono solo al mondo. Quello che mi preme invece sistemare in caso di mia dipartita sono le mie amate automobili d'epoca. Quante ne possiede? Io al momento ne ho 4, però come tutti i collezionisti... Beh, è giovane, ne acquisterà altre 20 prima di morire, penso. Me lo auguro vivamente. No, in realtà 4 è il numero perfetto, perché poi cominciano a essere troppe. Io sono uno e non riesco a guidarne già più di una al colpo, quindi si figuri. Lo so. No, di queste 4 automobili che mi creda per me... Il quadrichiappismo ancora è una... impossibilità, non può star seduto su quattro automobili contemporaneamente. Assolutamente. Ma come le alterna? Come le alterna lei nel corso della diciamo? Ma guardi, sono auto molto diverse l'una dall'altra, sono tutte americane, ma diciamo c'è la cabrio, la coupé, la berlina, il grosso fuori. Ecco, secondo lei sua sorella saprebbe cosa farsene queste automobili o non è il caso? No, assolutamente. Quindi non è il caso che le dia a qualcuno che ne apprezzi il valore non soltanto monetario ma di oggetto d'epoca? Esattamente, e le dirò di più, è una cosa molto diffusa tra i collezionisti. Io conosco tante persone che hanno ereditato inaspettatamente automobili anche di grande valore proprio perché nella vita hanno dimostrato di amarle, di essere vicini diciamo quasi spiritualmente al collezionista che le possedeva e se le sono ritrovate. A me viene in mente un escamotage anche in vita. Mi viene in mente un escamotage perché potrebbe sua sorella dire ma come, hanno comunque un valore di mercato, le regali al museo dell'automobile, mi deprivi di un valore. Bisognerebbe lasciare, non so se è possibile, se riusciamo a riportare in vita il notaio che ci consigli mi corroborerà in questo, lasciare una sorta di volontà così articolata. Propongo che il museo tal dettagli, il collezionista tal dettagli possa acquistare a un prezzo naturalmente adeguato e di favore queste automobili a beneficio di mia sorella, di modo che non toglie al parente stretto un minimo beneficio monetario del suo oggetto, ma né lo affida in mano che poi chiama il primo sfasciacarrozze e gliele lascia. Certo, no, ma vede, sì, parliamo sicuramente di auto di valore, ma non di così elevato valore o di così elevato interesse da... Ma faccio degli esempi così capiamo. Così. Ma, guardi, parliamo per esempio di una Mustang degli anni 60, parliamo di una grossa berlina Lincoln degli anni 70, quindi sono auto che... Ma sono auto che hanno diciamo, ancora di più rispetto a un'auto più antica... Ha un valore perché oggi lo sa benissimo che il revival è qualcosa che fa parte delle passioni contemporanee, sono macchine con cui ancora uno potrebbe andare in giro e fare la sua figura e quindi avrebbero il valore. Abbiamo messo a punto una possibilità di come disfarsi, se possibile, gli oggetti che hanno un valore non soltanto monetario ma anche affettivo, anche collezionistico. Sentiamo Mariangela. Salve Nicoletti, buongiorno, buongiorno. Io volevo dirle una cosa riguardo anche al fatto che tutto sommato è anche cambiato il modo di fare testamento, mi spiego meglio. Oramai sempre più persone, anch'io l'ho fatto, insomma, si sposano, poi divorziano, no? Le famiglie si nascono, si ricompongono, si disfano. Sono questo, diciamo un pochino più complicate le famiglie. Sono oggi. Più complicate, questo obbliga ad affrontare in tempo reale, mi passa questa espressione molto brutta, anche il discorso della sistemazione dei beni. Certo. Io per esempio se prima ci si scannava in famiglia, adesso ci si scanna su al minimo quattro famiglie. Esatto. Ci si scanna davanti all'avvocato quando si divorzia, però questo io l'ho apprezzato poi, no, con il senno di poi, lì per lì sembra una cosa tremenda. Lei con chi si è scannata nella sua esistenza? E io mi sono scannata con un marito dopo 15 anni di matrimonio, due figli, due case che c'erano costate insomma notevoli sacrifici, no? Ovviamente come in tutti i divorzi c'è sempre una parte più forte e una più debole, almeno economicamente, io purtroppo ero quella più debole e quindi che cosa ho fatto? Ho lottato perché almeno questi beni immobili venissero da subito aggiudicati ai figli e ce l'ho fatta, devo dire. Per cui, come dire, il mio testamento... Quindi sarebbe buona regola, finché ancora si va d'accordo, fare in modo che la parte consistente del patrimonio sia comunque assegnata ai figli, così almeno poi i genitori possono passare tutte le vicende che vogliono. Esatto. Ma se i genitori poi a loro volta si risposano e hanno altri figli, i figli di secondo letto, dice al Signore, riaccampano, si allarga il problema. Riaccampano diritti su quello che viene da quel momento in poi. E d'altronde, mica è detto però. Però la legge su questo è abbastanza chiara, per fortuna, perché poi un conto sono le pretese, un conto è... Ma le recriminazioni lei sa poi dopo, quando uno passa a un'altra famiglia, il massaggio mentale quotidiano lo subisce dalla seconda moglie o dal secondo marito. Certo, però bisogna anche lì insomma avere un po' di saggezza. intanto informarsi bene su quello che si può fare e non si può fare. Comunque lei è riuscita a sistemare la sua situazione? Sì, assolutamente, assolutamente, e anzi anch'io poi ovviamente mi sono rifatto una vita, c'ho un compagno con cui non mi sono sposata perché non mi voglio più sposare, ma per esempio in quel caso so, lo so per certo, di essere adesso io destinataria di testamento. Ecco, in quel l'ha visto, caso l'ha letto? No, no, cioè, si però fida. Mi è stato detto che sì, a parole. Sì, mi fido, certo, so che c'è. È un atto di fiducia, però me ne dia ragione di questo. Sì. Anch'io potrei dire nel momento della passione ti lascerò tutto, amore mio. Ogni mio avere no, sarà no, tuo. No, no, ma non è così. Cioè, so che c'è in quel cassetto, in quel... E non è andata a sbirciare? No. E perché? È perché non ci andrò mai fino a che non accadrà. Non vuole cadere di fronte alla delusione. Metta, c'è scritto che lascia tutto alla prima moglie, che fa lei? No, non ce l'ha la moglie. Lui. Vabbè, una bielorussa, qualcosa di passaggio, che ne sa? Ha molte macchine d'epoca, ma non è quel signore. È il signore che ha chiamato prima? No, no, è un altro. Grazie, grazie signora. Grazie, a presto, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. 800 24 0024. Melog 2.0. Tutto quello che posseggo passa dopo la mia morte a mio fratello Andrea, perché solo io e lui siamo rimasti scapoli e lontanati da tutti i familiari. E noi due abbiamo lavorato e dal piccolo risparmio abbiamo accumulato quello che tuttora abbiamo, dopo tanto lavoro e sacrifici. Perciò, dopo la mia morte, tutti i nostri averi passano a mio fratello Andrea. E anche dopo la sua morte, cioè quella di Andrea, passerà in opera di beneficenza e niente per eredità ai nostri nipoti, che ci hanno sempre calpestati e mortificati per il lavoro che facciamo. Beh, il testamento contiene anche una parte d'odio. Uno può non soltanto lasciare, ma può anche denigrare, può anche spiegare e specificare il perché del non lascito. Salvatore De Matteis, buongiorno. Ciao, buongiorno. L'abbiamo beccato finalmente, eravamo veramente in pena per lei. Allora, io ho gestito la prima parte millantando competenze notariali che non ho assolutamente. Lei è avvocato, soprintendente dell'archivio notarile distrettuale di Napoli, autore di Sia fatta la mia volontà, edizioni Mondadori. Quindi abbiamo avuto una prima sventagliata di domande. Andiamo a ribadire alcuni concetti che già sono stati detti a questi microfoni, ma non, vale sempre la pena di ricordarlo. Il testamento è qualcosa che fa non soltanto in odore di morte, ma andrebbe fatto quando uno è in pieno possesso delle proprie facoltà, è felice, realizzato, mangia, beve, dorme, tromba, insomma sta bene. Perfetto. E decide di lasciare qualcosa agli altri proprio perché è un momento di generosità, o sbaglio? Perfetto, perfetto. Il testamento va fatto quando uno sente bisogno di farlo, e questo può avvenire pure 50 anni prima dell'evento. Ce ne sono una quantità in giro di testamenti che sono stati redatti con un enorme anticipo rispetto all'evento finale della morte. Il problema è quando si fa in anticipo si cambia molte volte, però la vita cambia. E questo è forse è il bello dell'olografo, perché dà la possibilità di adattare il testamento alle mutate esigenze, ai mutati sentimenti, a una pienezza di sentimenti, a un colmo di sentimenti diverso. Allora, nella sua esperienza appunto di grande mediatore di volontà testamentare, vede dei cambiamenti? Oggi una signora ha chiamato dicendo oggi le famiglie si articolano in maniera molto fantasiosa, molto allargata, e aumentano i problemi, perché già è difficile accontentare moglie e figli di primo letto. Quando viene una seconda famiglia entrano in gioco quattro realtà, perché ogni persona dalla seconda famiglia inizia una famiglia alle spalle. Come viene affrontata questa complessità testamentaria? Niente, tutto dipende dalla buona volontà del testatore, che una volta che ha riconosciuto questi figli, si è risposato, eccetera, deve necessariamente accontentare questi nuovi eredi. Ma non solo la famiglia allargata, il problema che si sta ponendo e che la società mo sta avvertendo forte è quello delle famiglie di fatto, che possono essere, esistere anche fra persone di sesso, dello stesso sesso. Beh, questo è il grande problema su cui si dibatte la coscienza del paese, non vedo che poi sia un grande problema, perché al di là degli aspetti di tipo etico, religioso e morale, c'è un dato di fatto: due persone che vivono assieme per 30 anni, siano essi uomini, maschi, femmine, cani da passeggio, quello che è, comunque sia, hanno diritto, chi sopravvive, di avere in eredità i beni della persona con cui ha diviso affetto, amore, vita per tanti anni, o sbaglio? Sì, sì, io sono perfettamente di questa idea. Poi, vedendo quello che viene fuori dai testamenti, non sempre la famiglia, diciamo quella tradizionale, è un buon esempio. Molte famiglie sono sostanzialmente diverse da quelle che appaiono alle persone, per cui all'interno si determinano degli screzi profondi che poi esplodono a distanza di tempo, e questo vale non solo per le famiglie di persone comuni, ma anche per personaggi come per prende la famiglia Agnelli, quello che sa, quello che sì, quello è, fa parte della cronaca, è sotto gli occhi di tutti, capito? Sì, ma lì quando si tratta di dividere immensi patrimoni, di cui poi parte è visibile, parte non è mai visibile, via dicendo, la complessità si capisce. Ma lei da notaio osserva che esista veramente una doppia lettura. Molte volte le compattezze e le armonie familiari mostrano delle enormi voragini nel momento della lettura del testamento. Certo, il testamento è una fonte che rivela non soltanto la personalità di chi lo scrive, ma rivela anche la personalità della famiglia, perché non dimentichiamo che la famiglia non è un totale algebrico delle personalità dei membri, ma la famiglia poi acquista, come la società, una personalità a sé stante, certamente risente delle personalità che ne fanno parte, però diventa una personalità sua, e ogni volta che c'è un evento a morte va in crisi questo sistema famiglia. Perché è un sistema che si basa molte volte su convenzioni, finché non c'è qualcosa di concreto e materiale su cui discutere, le convenzioni tengono in piedi anche rapporti affettivi che non sono tali, legami familiari che non sono tali, sopiscono invidie, gelosie, senso di amarezza per precedenti divisioni che non sono state mai fatte secondo la nostra volontà individuale come noi avremmo voluto. Sentiamo Claudia. Claudia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telefono perché volevo parlare dei vincoli testamentari e volevo fare un appello affinché nessuno imponesse questi vincoli, perché in genere li impongono le persone che già in vita sono di carattere prepotente e lasciano poca libertà al prossimo. Ma uno però, quando fa testamento, è solo, può andare da un notaio senza dirlo a nessuno, può fare un testamento olografo e lasciarlo a un notaio, può fare uno sberleffo anche al più despota dei parenti. Sì, sì, infatti, però poi viene ricordato solo per, diciamo... Ma quando è morta, sì, cosa le importa chi la ricorda? Lei sta da un'altra parte. Io lo dico, io il testamento l'ho fatto e non lascerei mai niente di vincolato, perché ritengo che quello che si lascia siano oggetti. Gli oggetti hanno valore diverso per le persone, possono avere un valore per il testatore, insomma colui che lascia, ma non lo stesso valore per chi eredita. Quindi non vedo perché chi eredita debba essere vincolato per esempio a mantenere certe proprietà. Ma questa è una cosa molto giusta. Molte volte sono delle trappole. Ti lascio questa casa di famiglia purché tu non l'affitti a nessuno, non cambi mobili, non ci metti dentro le donne di piacere. Cioè, uno o me la dai per farci quello che voglio, se no tientela. Io penso così. Ma infatti, più che altro, siccome prima si parlava anche del carattere, che nei testamenti viene fuori il carattere, diciamo, si rivela il carattere delle persone. Ecco, le persone che in vita sono state delle grandi persone rompiballe. Cioè, un infame in vita si nota anche nel testamento. La sua infamità, ecco, è agli sgoccioli e tanto dimostra quanto possa segarti l'anima anche col testamento. Ecco, è vero, infatti, sì. In quel caso è meglio rinunciare e allontanarsi con discrezione. No, vabbè, sarebbe meglio che quando uno ha un certo tipo di carattere, purtroppo lo rivela in vita. Vabbè, uno perché dovrebbe migliorare morendo? Di solito quando si muore un po' si peggiora anche all'occhio, quindi anche il carattere logicamente non può migliorare. Grazie. Domenico. Pronto? Eccolo. Buongiorno. Senta, sicuramente è un consiglio come fare, perché io sono un divorziato, ho un appartamento e ho 5 nipoti, però questo appartamento, ho 72 anni, questo appartamento vorrei darlo solamente a 2 nipoti, e se è possibile questo, così un consiglio. Cioè, gli altri cosa fai? Da un foglio bianco con disegnato un paio di corna, cioè che gli dici agli altri? Niente, fine. Non ho capito. No, diciamo, 2 nipoti, gli altri 3 nipoti li lascio bocca asciutta. È perché sono solamente 2 nipoti che mi stanno un pochettino vicini, gli altri, nemmeno i 3 figli. Le risponde subito De Matteis. Sì. Vediamo. Lei è sposato, ha figli, no? Sì, sono divorziato, e 3 figli e 5 nipoti. Ha divorziato e 3 figli, ma ai figli suoi ha lasciato quando deve lasciare per legge? No, niente, ai figli non voglio lasciare niente. E non si può. Non si può. Penso di no, De Matteis. Io non chiedo scusa, allora non ho capito bene. Non vuole lasciare nulla ai figli e darla a 2 nipoti. Non lo può fare. Non lo può fare, non lo può fare, perché in Italia non esiste la diseredazione. La diseredazione in Italia può essere, ma fra virgolette, perché poi non sarebbe chiamata diseredazione, si può avere soltanto in alcuni casi accertati per legge, quando per esempio che il figlio ha tentato la vita del testatore, certo, ha cercato di cambiare, alterare, strappare il testamento, ma diversamente non si può fare. Nei paesi anglosassoni fanno diversamente. Qua non lei non può diseredare i figli. I figli hanno una legittima testamentare e le case le lascia alle figlie. La disponibile, però. Allora, se io voglio venderlo ai 2 nipoti, che però hanno 10 e 11 anni. Ancora là può essere una frode. Lei invece potrebbe fare una cosa diversa, ma a me un po' ripugna questa situazione. Però c'è un escamotage. Lei vende tutto da soldi, insomma. Ecco, lei potrebbe vendere tutto e dare i soldi cash, cioè dare il denaro ai nipotini. No, esatto. Apre un conto in banca ai nipoti e gli attesta un conto in banca. Ecco, magari non, più che intestare il conto in banca, voglio dire, personalmente non lascia tranquillo. Beh, mica può dare il valore di un appartamento, che saranno minimo 400.000 euro cash in mano ai bambini. Ci comprano gelati e gli viene indigestione. Caramelle, gelati, eccetera. Beh, io ce ne stanno una quantità. No, però io penso che possa lui in qualche maniera trovare una maniera lecita di aprire un conto a favore di questi figli, dando loro una tutela finché non sono maggiorenni. Penso che esista uno strumento giuridico. Assolutamente. Però dovrebbe vendere prima possibile la casa. Diciamo che fin quando il testatore è in vita fa e disfa, però nel momento in cui poi lascia il testamento e le cose si applicano alle regole che riguardano la materia testamentaria. Oddio, i figli vorrebbero sempre impugnare questo testamento e dire che è stato raggirato da nipoti, che c'è certo. Non se ne esce più. È lesivo della legittima, cioè il testamento non ha rispettato le quote che devono andare a questi eredi necessari. Diciamo che una regola, secondo me, che può valere, vediamo se mi conferma De Matteis, sarebbe bene mettersi d'accordo finché si è vivi, perché quando si è morti, con lo strumento dell'impugnamento, degli avvocati, le cause vanno avanti per 30 anni e alla fine non prende niente nessuno, o sbaglio? Mangia l'avvocato e i medici che devono curare gli attacchi di fegato che vengono ai litiganti. Ma poi il testamento, diciamocelo francamente, io sono un sostenitore del testamento olografo, quello scritto di mano propria, da soli, senza presenze strane, e nel quale la persona si abbassa la guardia e dice tutto quello che vuole dire. Allora io in questi testamenti olografi, sui quali poi ho basato le mie ricerche, e ho trovato un po' di tutto, ho trovato la verità, lo spaccato sociale, lo spaccato familiare, si va da momenti di umorismo involontario a momenti di alto lirismo. Cioè io sono per questo testamento che chiamo, fra virgolette, narrativo. Il testamento che si fa davanti al notaio per la divisione, sì, certamente è un atto, diciamo, però è una specie di esercizio di anatomia. Uno taglia un pezzettino, lo do a questo, ma non c'è nessuno slancio, non c'è proprio niente. Diciamo che c'è la parte testamentaria che interessa l'affare, interessa i soldi, la tasca. Questo dimostra, salutatore De Matteis, un grosso spessore poetico nella sua attesa. ma molte volte gli eredi sono degli sciacalli affamati, vogliono affondare i denti nella roba. Di tutti gli sforzi per far capire il per come, il per quando, il punto di vista, lo stato d'animo, il regresso, il macerato dentro, gliene importa veramente poco. Vogliono la roba e solo sulla roba loro sono contenti e soddisfatti, anzi non sono mai soddisfatti. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Io sottoscritto, Pietro Pastalacqua, non ho più parenti o amici su questa terra. Qualche conoscente di scarso valore, tipo salumiere, fornaio, barista, la signora della trattoria dove mangiavo una volta al giorno quando potevo muovermi. Ora il pasto me lo portano a casa, da dove non esco da più di 3 anni. Vivo solo, ma ho una donna ucraina che mi viene a pulire la casa ogni 2 giorni. Meno male che ho la pensione. La televisione non mi piace molto. Mi sembra che mi prende in giro perché i telegiornali sono tristi e fanno piangere di dolore. Ma subito dopo tutti cantano e ballano, anche sugli altri canali che giro in continuazione. Solo i film in bianco e nero mi piacciono, ma non li fanno quasi mai. La sera preferisco guardare il cielo. E così ho scoperto che ci sono gli extraterrestri che ci visitano sulla Terra continuamente, senza nascondersi troppo. Spero di conoscere uno di loro prima di morire. Ma è difficile, perché vanno sempre di corsa. Mentre ci sono, non ci sono più. Così ho pensato di dare a loro un segno di amicizia terrena. Lascio tutto agli UFO. Questo e altri testamenti che vi abbiamo letto sul filo a volte del paradosso, ma perfettamente in linea con quello che diceva Salvatore De Matteis, che sono dei microcosmi in cui uno, nel momento che decide di lasciare i propri averi materiali e immateriali, fa un condensato estremamente espressivo della propria vita. Dicevo, sono tutti tratti dal libro di Salvatore De Matteis, Sia fatta la mia volontà, come e perché fare testamento, storie, riflessioni e consigli, edizione Mondadori. Quel libro che, oltre a spiegare tecnicamente qual è la maniera migliore per fare testamento, fa una sorta di antologica rassegna di testamenti che sembrano paradossali. De Matteis lascia tutto agli UFO, questo signore, ma in realtà chi incasserà questo bene? Probabilmente gli eredi, se ne ha eredi entro il sesto grado, e se no sarà lo Stato, visto che se gli UFO si presentano a reclamarlo, avranno pieno diritto di averlo. Eh? Avranno pieno diritto. Avranno pieno diritto. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Io ho una... L'avvocato ha spiegato quasi tutto quello che volevo sapere, però, perché io a Natale di quest'anno ho ricevuto un regalo strano, una zia che non ha figli, è la moglie, l'ex moglie del fratello di mio padre, mi ha lasciato come regalo di Natale il testamento, cioè erediterò quello che lei ha comprato nella sua vita. Premesso che io spero di ereditare il più tardi possibile. Ma di cosa si tratta? Di cosa si tratta? In concreto, che bene è? Sono 2 case. E beh, butti via, scusi, no, faccia i salti di gioia. Dio, per l'amor di Dio, non butto via niente. No, vorrei vedere. No, assolutamente. Però, cioè, una zia inaspettatamente le ha lasciato 2 case. Lasciato 2 case, una casa, una bilettina e un appartamento. Scusi. Ma io però... Paperone, stia contento. No, ma quello che voglio sapere io, sinceramente, è questo. Dal momento che io sono... mia zia è divorziata. Cioè, era sposata con il fratello di mio padre. Ma è morto e viva la zia, è morta. Vivissima e viva. Benissimo. E allora ecco perché non è così allegro, finché la zia è viva. Io sono allegrissimo, perché spero che mia zia resti qua tantissimi anni, perché ringraziando Dio non ho bisogno di ereditare. Capito che la zia gli ha lasciato, era deceduta. No, è il regalo di Natale. A Natale mi ha detto: Matteo, io ti tengo come regalo di Natale quest'anno, ti faccio un testamento in tuo favore. Olografo. A mio favore, olografo. Ma quello che voglio sapere io, indipendentemente dal testamento, da tutto, ma io ho diritto a queste cose, essendo nipote, perché è una cosa strana, ma... io sono figlio del fratello dell'ex marito. Dipende se la zia ha eredi diretti, ha figli? No, non ha figli, però ha un fratello in vita. Sentiamo il Salvatore De Matteis. Io francamente non ho ascoltato, non sono riuscito a sentire. Dunque, questo signore ha una zia. Che è la moglie di un suo zio, che a Natale ha detto: ti lascio le mie 2 case. È una zia senza figli, però ha un fratello. Lui dice: ma le piglierò mai queste case quando la zia più tardi possibile passerà miglior vita? Sì, salvo che il testamento non venga impugnato per qualche ragione. intanto quando la zia dovrà cesserà di vivere, il nipote, se ho capito bene, passerà la pubblicazione del testamento, il notaio procederà, farà le trascrizioni, eccetera. Se qualcuno dovesse intervenire e dire che ha diritto a qualcosa, si vedrà, cioè ha diritto o non ha diritto, intanto l'eredità passa a lui. Il meccanismo è questo. Lui intanto eredita, poi se qualcun altro impugna l'eredità, potrebbe ritiene di dare fastidio, dare fastidio. Potrebbe essere il fratello, potrebbe avere qualche diritto, il fratello. Non credo, perché se non hanno figli, l'unico problema potrebbe essere il marito, ma se per esempio la separazione già è avvenuta per colpa, tanto per dire, e la colpa è stata addebitata al marito, il marito non può avanzare. Comunque uno non può stare mai tranquillo, diciamo la verità, tranquillo al 100% uno non ci sta mai. Ecco, ma chissà perché, vede, il problema sta sempre là, il faccenda è sul patrimonio, inteso come beni. Nel testamento olografo, nel testamento olografo, esiste invece un ampliamento di questo concetto che veramente commuove, e che per patrimonio non si intende più tanto l'oggetto, la casa, il denaro, eccetera, ma si intendono proprio la quantità di sentimenti che possono essere tanto positivi che negativi. Lei continua su questo pratica. Punto, Salvatore Mattesi, ripeto, le fa onore. Ma quelle belve assetate di sangue che sono gli eredi, sì, vogliono la roba. Il consiglio che io do anche in questo libro è proprio questo: fate un bel testamento olografo, non fate quello che volete, dite quello che vi pare, in modo che avete fatto e state a posto voi con la vostra coscienza. E gli altri cavoli se la vedono loro quando... Se invece è necessario, perché ci sono delle implicazioni sociali notevoli, perché il patrimonio è importante e quindi non lo so, sì, è una grossa allora a questo punto sarà necessario che parte almeno di queste cose vengano distribuite con maggiore... È molto chiaro, Salvatore Mattesi dice, voi mettetevi a posto la coscienza, perché tanto l'unico aggravio che avrete sarà di tipo morale nel momento di partita, poi l'altro se la vedrà, sarà da secondo diritto, provvederanno. Piero, buongiorno. Buongiorno, voglio intervenire. Le spiego il fatto. Lo dico. Tempo fa mio fratello era sempre uno che aiutava sempre la zia. La zia è morta, mio fratello voleva dividere il patrimonio, dico no, io ho pensato se c'è un testamento darà tutto a lui. E quindi andiamo a cercare il testamento. Abbiamo trovato il testamento e la zia ha lasciato tutto il canile. No? Questo è il bello, no? Ma voi il testamento spero lo avrete mangiato, distrutto, bruciato o no? Il testamento era da un notaio, no? Ah, da un notaio. L'ho fatto cercare finché l'hanno trovato, perché ero convinto che la zia lasciasse tutto a mio fratello, perché automaticamente è quello che è sempre. E suo fratello non è stato molto felice di questa scelta. No, tutt'altro, sì, questo, no. Quello che non capisco è che ha lasciato tutto il canile e il canile si è mangiato i soldi. E l'appartamento. Ma no, l'avranno dato in cibo per cani, in shampoo per cani, in toilettatori per cani. Lasciamo perdere. E io le voglio ancora dire una cosa. Il mio sistema è questo: do tutto via prima di morire a tutti. Se lo brucia tutto, diciamo. Poi chiedo sempre soltanto: bruciate il mio corpo e dimenticate tutto. Chi vuole, se ce l'ha nella coscienza, è buono. Ah, bene, certo, lei è così ferito nella sua coscienza da questo lascito a favore del canile che dice: io mi mangio tutto, bruciatemi, buttatemi via, non voglio lasciare niente a nessuno. È anche comprensibile. Sergio. Sì, buongiorno, dottor Cornelli. Io ho un caso di questo genere, ho tra le mie mani un testamento olografo scritto da mio zio, che non è mai sposato, non è mai stato sposato, non ha figli, e che dice: 3 anni fa mi dà questo testamento, e questo testamento recita: annullo e revoco ogni mio precedente testamento. Sì, questa è la formula, certo. Esatto, e nomino mio erede universale, mio nipote, nomina il nome, e socio, e lascio ogni mio avere a lui, casa, conto corrente, e dovrà occuparsi delle mie esequie funerarie, grazie, sì. E firma. Io volevo chiedervi, dato che lui dice annullo e revoco ogni mio precedente testamento, se questo testamento realmente, cioè che solo un foglio scritto di suo pugno e firmato, annulla qualcosa che magari è depositato da un notaio. La mia paura è questa. Ecco. Salvatore De Matteis, questo depositario di testamento olografo dice: ma questo mio testamento annulla veramente tutto ciò che c'è stato prima? No, annulla sicuramente, perché per i testamenti vale la regola che l'ultimo esclude i precedenti. L'ultimo chiude la porta di tutto. Chiude la porta, laddove ovviamente ha modificato i precedenti, ma se l'ultimo si limita semplicemente a cambiare una disposizione o si limita ad integrare disposizioni precedenti, allora è evidente che i testamenti precedenti per le parti non modificate restano dove sono, restano vivi. Però questa clausola generica che viene inserita in tutti i testamenti serve proprio ad azzerare la situazione precedente. Quindi è molto chiaro, questo... molto chiaro, Salvatore De Mattesi. Noi dobbiamo lasciarci, la trasmissione è finita. Rispondo invece sua a Verdiana, che mi scrive che vuole diseredare marito e figli e lasciare tutto niente benefico. Ci ha già spiegato Salvatore De Mattesi che l'operazione del diseredare qualcuno può accadere soltanto se questo attenta alla nostra vita, fa qualcosa di molto grave. Se non c'è questa fattispecie, penso sia molto difficile. Ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.